Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Gay, laici e libertà. È di moda parlare di gay e chiesa, di gay e politica, ma nella maggior parte dei casi si tratta di gay classificabili in base a categorie di carattere ideologico. In realtà non solo per i gay, ma per tutti, sarebbe bene tenere presente la categoria fondamentale della laicità, cioè la capacità di mantenere un'autonoma capacità personale di giudizio al di là delle appartenenze religiose o politiche, che non devono mai essere forme di vera abdicazione alla capacità di pensare in nome di fedi di vario genere che si presentano come risposte definitive e capaci di dare un senso alla vita. Intendo dire che qualunque appartenenza ha un valore se è un'appartenenza laica, revocabile, senza vincoli perpetui, senza la rinuncia a pensare. Cattolici se ci si sente tali, ma laicamente cattolici, cioè cattolici liberi di pensare e di non essere più cattolici senza drammi se si comincia a percepire quel messaggio come estraneo o come forzato. Lo stesso discorso vale per le appartenenze politiche. Aderire al partito X o Y se lo si ritiene giusto, ma mantenendo l'uso del proprio cervello, aderire, cioè laicamente, al di là delle identificazioni viscerali o di reazione. La laicità non consiste nell'essere contro qualcuno o qualcosa, ma nel non dipendere, nel non essere condizionati, nel considerare la capacità di pensare liberamente come la caratteristica fondamentale del pensiero e la libertà, al pari della dignità di tutti, come l'obiettivo dell'attività politica. In questo senso esiste solo una morale, ed è la morale della libertà e dell'uguaglianza, la morale del rispetto, ma anche della fermezza contro le prevaricazioni, che non sono esercizio di libertà, ma di abuso. Perché questi discorsi in un forum gay? La risposta è chiara. Gay, certo, ma laicamente gay. Gay che non devono fare massa, che non sono assimilabili gli uno agli altri solo in quanto gay. Gay diversi, ciascuno con la sua storia e il suo cervello. A qualcuno potrebbe sembrare che essere gay senza un'ideologia gay sia in realtà un modo di svilire l'identità gay. L'identità gay va vissuta laicamente, senza identificazioni a priori con una pretesa ideologia di gruppo, mantenendo cioè sempre la propria capacità di giudizio. Gay, quindi, in una forma di pluralismo culturale in cui il valore unificante, che non è né gay né etero, come non è né cattolico né non cattolico, è la laicità, cioè l'istinto della libertà e il rifiuto delle servitù intellettuali. Molti gay fanno esperienza sulla loro pelle della dimensione asfissiante delle appartenenze non laicamente vissute e quindi imparano attraverso l'esperienza quale sia il valore della libertà. Da qui deriva una specie di istinto per la libertà, una capacità di fiutare le servitù di pensiero anche quando sono presentate come un valore di fedeltà. L'unica fedeltà che ha un valore è la fedeltà alla propria coscienza. L'apparire di maestri di morale, di dottrine, di regole è la prima spia dell'assenza di libertà. È difficile capire il senso della morale della libertà, perché le morali che si sono incarnate storicamente non sono state ispirate alla libertà o hanno proclamato principi di libertà solo a parole. La morale della libertà non è costituita da un corpo di regole che sostituisce un altro corpo di regole. Si tratta invece di una realtà interna alla coscienza, basata su valori di rispetto reciproco e di apertura al diverso, finché quel diverso non divenga prevaricazione della libertà altrui. La libertà non dà certezze, ma propone dubbi. La libertà non dà risposte, ma propone nuove domande. La libertà aiuta a passare dalla logica della paura alla logica delle scelte. La libertà consiste nell'essere se stessi, nel lasciare parlare la propria coscienza. La libertà è anche libertà di sbagliare e di correggere i propri errori. È libertà di cambiare idea. La libertà non viene dall'esterno, ma è dentro di noi. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.